Vuoi sapere cosa penso? Dopo tutto questo tempo sono ancora io. E come ieri, come adesso, è di notte che mi accendo e trovo le parole. Se ti dico che è finita la passione, che non ho più bisogno di mille persone, che ogni volta che mi sveglio non ho chiaro cosa voglio, è da ieri che ti penso. Vorrei sapere per davvero, ma tu come stai? E dirti tutte quelle cose che non dire mai. Sono persone, frasi, giorni, mesi e storie. Sono pensieri come quando fuori piove. Non guardarmi così. Sarà che forse già ci siamo detti tutto, che fino adesso abbiamo già parlato troppo. Rincontrarsi un'altra volta per sapere come stiamo, più vicino, più lontano, e stare qui facendo finta che è lo stesso. Tu dimmelo se riesci ancora a dargli un senso, se è solo un'altra voglia di malinconia, un modo per sentirti accanto e recitare la magia. Stessi posti, stessi sguardi nascosto, nel silenzio di un dettaglio, di un ricordo. Vorrei lasciarti e poi lasciarmi andare. Vorrei che ogni nostro incontro fosse quello per ricominciare ora. Bastasse almeno mezz'ora per cancellare tutta questa mia paura. Come ogni singola parola, come ogni piccola porzione che ti porti via stasera. Non guardarmi così. Più pensieri.